strada un po'. Mentre io la guardo in silenzio, mio Dio che bella è così, mentre dorme con le mani tiene a sé il cuscino. Non uscirei di qui, la guarderei finché non torna di nuovo il mattino. Ma poi, quando si sveglierà, lo so, mi guarderà, sorriderà, quella faccia buffa che ha. Francesca, non cambiare, resta sempre così. La vita è un'altalena e tu non cadrai mai. Francesca, poi comunque sia tu te la caverai. Francesca dorme già da un po', parole. Forse è meglio così, la cattiveria non la sfiorerà con le sue dita. E chi la fermerà? Io nei suoi occhi vedo solo la felicità. Di strada ne farà, io lo so. E quanta me ne insegnerà, la notte non fa paura. Francesca, non cambiare, resta sempre così. La vita è un'altalena e tu non cadrai mai. Francesca, poi comunque sia tu te la caverai. Francesca dorme.